Allora, dovremmo essere collegati telefonicamente con Atene, con un compagno che si trova lì, Achille. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora descrivici un po' qual è la situazione attorno a te e insomma facci capire qual è il clima che si respira a Piazza Sintagma, Achille. Ok, allora adesso mi trovo in Piazza Sintagma per stamattina, che è il giorno in cui sarà approvato, insomma dovrebbe essere approvato il nuovo pacchetto di misure austere dal governo socialista. Erano previsti dei blocchi per impedire ai parlamentari di arrivare al Parlamento e uno di questi blocchi è stato attaccato dalla polizia, ci sono due persone che sono state fermate. Io mi trovo in Piazza Sintagma dove dalla mattina si sta raggruppando, sta arrivando gente. Diciamo che il grosso della gente dovrebbe venire verso il primo pomeriggio, l'ora in cui dovrebbe cominciare la votazione delle misure. D'accordo, per il momento almeno in Piazza Sintagma la situazione è tranquilla, comunque si respirano un po' i lacrimogeni che la polizia ha lanciato ieri durante la mattina ma anche durante la notte, perché ci sono stati degli scontri continui praticamente dalla mezzogiorno fino al pomeriggio e poi di nuovo durante la notte. Senti, siccome abbiamo già letto che erano stati organizzati anche dei blocchi del traffico, cercando di coinvolgere anche gli automobilisti che si trovavano in zona, sono riusciti questi blocchi? No, dalle notizie che mi arrivano no. Ho capito. E invece volevo chiederti, rispetto a diciamo i cortei che confluiranno nella piazza organizzati dai sindacati e in cui ci sono chiaramente insomma tanti settori del mondo del lavoro, sono già confluiti in piazza questi spezzoni di corteo oppure si attendono anche loro per il pomeriggio? Si attendono il primo pomeriggio. Vabbè, alcune diciamo che sono arrivati dei blocchi da varie assemblee di quartiere, dall'organizzazione di sinistra, però le organizzazioni sindacali si aspettano il pomeriggio. Ho capito. Senti una cosa, Achille, ci sta in questo momento anche una discussione, si sta procedendo come è accaduto negli ultimi tempi quasi costantemente in Piazza Sintagma a un'assemblea generale fin da queste ore del mattino, oppure la situazione ancora non è diciamo aperta dal punto di vista assembleare, non ci sta questa cosa adesso? Non ho sentito bene la tua domanda, puoi ripetere? Sì, certo, ti chiedevo se ci sta insomma un confronto di tipo assembleare, se c'è un'assemblea in corso oppure se in questo momento la gente staziona semplicemente intorno alla piazza, nella piazza, no, senza... No, in questo momento non è in corso un'assemblea. Uh-huh. Di solito le assemblee si svolgono il pomeriggio, però insomma ieri non è stato possibile, credo che neanche oggi sarà possibile, visto che il blocco del Parlamento continuerà fino a tardi. Ho capito, va bene. Dunque la situazione insomma immaginiamo che comunque sia tesa, ma tu la descrivevi tranquilla, ecco. Sì, perché per il momento è tutto tranquillo, sì. Va bene, allora noi ci risentiamo intorno a mezzogiorno, va bene? Ok, allora a più tardi, ciao, grazie.